Benvenuti. No, non ricordo. Episodio 219. Non me lo ricordo mai. Che cos'hai da guardare? Che io che poi li monto facendo copia e incolla. Non è che guardo l'episodio, il numero di episodi. E non si guardano i numeri qua, si guarda la qualità. Vabbè, benvenuti, episodio 219. Con me ci sono Angela, Jacopo e Andrea. Ciao. Angela parlerà più forte, visto che l'ultima volta non si sente. Ah, senti, io me l'ho richiesta da farti. Sì. Mi devi abbassare, cioè sono troppo... Sì, è il problema di OBS. Su Craig, non, cioè su... Su Discord non hai questo problema, su OBS è altissimo. Il problema è che OBS non riesco a sdoppiare le tracce. Sussurra, ecco, sì, sussurra. Fai un po' di ASMR. ASMR. Ti compro un microfono per Natale, Andrea. Grazie. Comunque sì, hai ragione. Di cosa parliamo stasera? Allora, stasera parliamo di un film che mi hanno proposto di guardare. E che io pensavo dicessi obbligato. Però allora io ci ho provato a guardarlo, però ho avuto un problema. Allora, innanzitutto il film in questione è sempre su Netflix? Sì. Ok. Sempre Netflix, se ci vuoi sponsorizzare, noi siamo qui, nel senso che ormai trattiamo solo film su Netflix, quindi. Perché sei troppo pigro per andare al cinema. È vero. Non lo nego. E mi è stato venduto dicendomi c'è un film con Idris Elba, thriller. Allora, io non ho visto Idris Elba, vabbè, colpa mia, però non l'ho visto. E in più non ho visto manco il thriller. Quindi il film in questione è House of Dynamite. Sì, è un thriller. Vai a cercare. No, sto cercando quanti minuti hai di riservare il film. Vabbè, e il film è uscito quest'anno. Si chiama appunto House of Dynamite. Oltre a Idris Elba, in realtà è, diciamo che è un film più o meno interessante per la regia e lo sceneggiatore. La regia è di Catherine Bigelow, vabbè, insomma, è regista che ha già vinto due film Oscar, miglior film e miglior regia nel 2010, e The Art Locker si chiamava il film, e invece il... Guarda che è chiaramente il minutaggio che io non ho guardato, cioè proprio è l'esatto minutaggio che non ho guardato. E lo sceneggiatore è Noah Oppenheimer, che è famoso per due motivi. Allora, il primo motivo è un motivo, diciamo, di carriera, nel senso che ha cominciato come giornalista e poi è diventato sceneggiatore e ha cominciato a fare sceneggiature con film, per film dubbi, tipo Maze Runner, tipo The Divergent, e poi è passato a film un po' più impegnati. Tipo House of Dynamite, poi impegnati è una parola grossa, però vabbè, o serie TV come Zero Day, insomma serie TV più giornalistiche. L'altra cosa per cui è famoso è che è rientrato, se non sbaglio, nel Me Too di Weinstein. Sì, però è rientrato, cioè nel senso lui non era direttamente coinvolto, ma è stato uno dei... No, come si chiamano? Dei publisher? Sì, però poi... si è rifiutato di pubblicarlo. Sì. Questo è stato il primo e motivo. Anche perché adesso è stato accusato. Ah, adesso è stato anche accusato. Quindi, non si sa se è vero perché è recente, però insomma... Vabbè, fa ridere perché lei in realtà... lei in realtà tratta più di finto giornalismo, finta propaganda pro contro America... però vabbè, essendo comunque vabbè, non sto a impelagarmi in questo discorso, tanto poi ci sarà Jacopo a parlare della parte sapio di cosa tratta questo film. Allora, questo film parla di un missile probabilmente nucleare che viene lanciato dal Pacifico come destinazione a una città degli Stati Uniti, e il film parla di questa cosa da diversi punti di vista, e in più non solo quindi da diversi punti di vista, ma lo divide anche in tre parti. Una, ogni parte ha due, tre punti di vista diversi, forse sì. Non mi ricordo. Uno principale più un paio aggiuntivi a corredo. E quindi ogni parte del film ha questo punto di vista principale più qualcos'altro. E la cosa che mi ha fatto desistere da guardare l'ultima parte del film è che in realtà ogni punto di vista parla dello stesso lasso temporale. Quindi da quando parte il film a quando si schianta. Spoiler. Quindi praticamente tu cominci scoprendo diciamo la trama e poi già a più o meno un terzo del film hai la conclusione dal punto di vista che guardi. Poi parleremo anche di conclusione perché non so bene, cioè non ho ben capito. Non l'hai vista? Non l'ho vista, ma so già cos'è, cioè nel senso non c'è nessuna conclusione. Vabbè, comunque, quindi ogni terzo è così, per cui il film è leggermente ripetitivo. E la cosa interessante per cui, cioè interessante, la cosa che dovrebbe essere interessante per cui c'è quella regista che l'ha girato e probabilmente anche quello sceneggiatore che l'ha scritto, è il fatto che tutto questo film è confezionato in modo tale da fare una sorta di propaganda contro la corsa alle armi delle varie nazioni, in particolare degli Stati Uniti. Per questo è come dovrebbe essere. Poi parliamo anche di com'è in realtà, però vabbè, detto questo, io che ho visto solo due terzi lascio a voi la parola. In questi due terzi non c'è Idris Elba e qua chiudo. Beh, io purtroppo devo fare un annuncio. Non l'hai visto? Hai visto un terzo solo? No, due terzi come te. Quindi volevo soggetto non identificato, poi alla fine impattano in palla. Non lo so, mi sono rotto abbastanza le palle, ve lo dico così, com'è. Mi sono rotto abbastanza le palle e non ho smesso di guardarlo, sinceramente. Beh, tecnicamente l'hai finito, almeno una volta. Poi l'hai finito tre volte per vincere il boss finale, però... Ho visto apparire... una specie di Idris Elba apparire dal bush e poi... Ah, quindi hai visto anche di più di me? E poi ho spesso perché ce la faccio. Quindi non lo so. Per me no. Ma hai visto Idris Elba o no? Cioè l'ho visto, è lievitato, tra l'altro ho lievitato volontariamente, cioè apposta per il film oppure era così? Boh. Non capisco cosa intendi. Cioè dici che è ingrassato? Un po', ma volevo sapere se era un po' sì. Ma apposta per il film oppure no? Ah, per fortuna non l'ho visto. L'ho visto male, insomma. Secondo me è che stavi ti stai addormentando e ti sei tutto... Ci ho capito un cazzo. E gli altri due? Beh. Angela, a te l'onore. Allora, a me è piaciuto, non in assoluto come vuoi farla passare tu. Non ho detto niente io. Ti conosco. Cioè, mi è piaciuto, ma con riserva. Non l'ho trovato così noioso e secondo me è un thriller. Sì, è un thriller. Un thriller noioso, incredibile. Ha fallito nel suo genere. Perché non è un film d'azione, questo è il tuo vero problema, non è un thriller d'azione che è quello che vuoi tu. Ma no, hai raccontato la stessa cosa tre volte, cioè che palle. Che palle. Che palle. Ma non poteva dividerlo una volta, già era lunghissimo lo stesso, però almeno faceva, vabbè, vai avanti, scusami. No, a me nel complesso è piaciuto, non è un film però che riguarderei, mettiamola così. Nessuno dei terzi. È meglio di Die Hard. Attenzione. Io dico che con Die Hard mi sono addormentata e questo no. No, attenzione Angela. Piano. Vabbè, non c'entra niente, sono proprio due generi diversi. Secondo me manca un pezzo, Angela. Hai detto, ho preso dei soporifici, come si dice, dei calmanti. E poi ho visto Die Hard, esatto. E poi mi sono addormentato. Vabbè, non stiamo parlando di Die Hard. Quindi, cosa ti è piaciuto di questo film? Mi è piaciuta un sacco la musica, perché mi dava proprio quella sensazione di ansia generica che ti lascia il film. Non lo so, nell'insieme mi è piaciuto anche come... È un po' lento, questo sono d'accordo. Alcuni poteva essere chiaramente più corto, cioè non servivano quasi 2 ore di film, ma 1 ora e mezza bastava e avanzava. Non era neanche così necessaria la suddivisione in terzi, potevano diluire il tempo e farlo in un'unica volta. Non sono una grande fan della suddivisione così in terzi tutte le volte, o dei capitoli se non strettamente necessari. Però nell'insieme mi è piaciuto che ha fatto vedere più punti di vista, mi è piaciuto che comunque manteneva una sua coerenza e non c'erano punti di vista casuali o scorrelati tra di loro, come spesso succede nei film più così, cioè, canonici. Quando ci sono tanti punti di vista che spesso non sono coerenti o non vanno avanti. E niente. Jacopo? Io... Allora, a me una volta piaceva Catherine Bigelow, sono sincero. Cioè, io quando ho visto Hurt Locker... Tra l'altro manco sapevo che era lei che aveva fatto da diretto Point Break. Point Break è un classicone. Sì, vabbè, però è un'altra storia. Era un'altra roba. Era più giovane, ma poi Point Break ha c'ha quella, non so, quello spirito anni 90, quasi anni 80, di fare le cose a cazzo di cane, super, diciamo, irrealistiche, super... Non so, Point Break... C'è Keanu Reeves. Basta, a posto. Point Break è l'origin story di Vin Diesel, cioè, secondo me Vin Diesel era seduto al cinema in sala, al buio, e ha pensato, what if Point Break ma con le macchine e la famiglia, e è venuto fuori Fast and Furious, cioè, no, Point Break, poi c'è anche la citazione in Hot Fuzz, insomma, Point Break, tanta roba. Art Locker... parli di un altro di altri, esatto, film pur di non parlare, non voglio di arrivarci, Sala. Non voglio, voglio far capire, non mi è piaciuto House of Dynamite, non mi è piaciuto, l'ho trovato, cioè mi ha messo molta ansia, il che di solito è un pregio, no? Cioè, se un film ti fa provare qualcosa, io lo reputo un successo, ma l'ansia secondo me non era supportata poi da un film con una, non so, non dico con una sostanza, no, perché la sostanza è anche opzionale, tipo in Weapons, come ne abbiamo parlato, andate a recuperare la puntata se non avete fatto, non è che serve che ci sia un tema affrontato bene. A me fa incazzare House of Dynamite perché ha la parte peggiore di Catherine Bigelow, che è la sua parte di ammirazione proprio, non so, completa per l'apparato di difesa americano, per quella parte più guerrafondaia. Cioè, avendo visto Zero Dark Thirty, avendo visto Dark Locker, avendo visto questo, boh, cioè, sono abbastanza convinto che in qualche modo lei sia un po', come dire, dentro a questo apparato, perché... Boh, cioè, è proprio una visione proprio, come si dice, statunitense, non so, cioè, Stati Uniti sono al centro, sì, del mondo, sono i buoni. Che Noah Oppenheimer abbia aiutato anche, come, cioè, da un punto di vista giornalistico, di ricerca su... Sì, non è che ne escano benissimo gli Stati Uniti. Cioè, nel senso, nel complesso, cioè, non mi sembra che il messaggio sia siamo i migliori. Non proprio, siamo però... più stronzi, che se ci fai male ti facciamo altrettanto male. Allora, la cosa, il dettaglio che mi è rimasto impresso, a parte, vabbè, che l'unica critica che gli ha fatto il ministro della difesa è che no, perché noi l'Iron Dome abbiamo il 100%. Non funziona così, è sicurissimo, è tutto sicurissimo. Esatto, è tutto sicurissimo, no, non succederebbe mai. non è chiaro il giorno dopo il commento rispetto all'uscita del film. Esatto, non è chiaro se il mister è arrivato e ha detonato oppure no, in realtà alla fine secondo me, cioè non è una cosa così sicura che effettivamente sia esploso alla fine, spoiler. Quello non è piaciuto il finale aperto, quello sì, cioè, quello è forse la cosa che mi è piaciuta meno. Sì, però in un certo senso non importa, cioè non so come dire, è che secondo me il film... è costruito male, come avete già detto, ma è anche il dettaglio del fatto che loro, come dire, hanno questa immediata diffidenza per la Cina, per la Russia, hanno, come si dice, hanno subito la reazione di dover fare un attacco retaliatorio. Cioè, tutto il film è far vedere che loro in realtà sono buoni perché si stanno trattenendo dal farlo, perché sarebbe la cosa più sensata da fare per evitare altre vittime. E questa, diciamo, non so, visione di essere uno stato vittima, uno stato in pericolo, uno stato che, come dire, che nonostante tutto si trattiene, che nonostante tutto è buono, non è una rappresentazione onesta della realtà, come dire, cioè non è la rappresentazione innocente e onesta di come sono fatti, diciamo, gli Stati Uniti a livello militare, di come funzionano, secondo me, ma questo è evidente dal fatto che Idris Elba è il presidente, cioè nel senso, già il fatto che Idris Elba sia il presidente e che cioè io ammetto che anche io, cioè, l'ho visto per quello. Angela mi ha giocato la carta di Idris Elba. C'è Rebecca Ferguson. Sì. Thriller con Idris Elba, cioè questa era l'informazione che avevo. Sì, Rebecca Ferguson purtroppo l'ho vista, nel senso che ha un ruolo inutile. Ma no, è uno dei punti di vista principali, non è un ruolo inutile. Sì, però materialmente cosa fa? Ma nessuno di loro materialmente fa nulla. Il presidente decide se premere o no il tasto. Però tu non lo sai. Vabbè, però fanculo, lui è importante, l'altro contratta con la Russia. Cioè, lei cosa fa? La gestione della crisi. Tipo, li chiama e dice: oh, avete mandato i cosi? Sì, no, non abbiamo capito. Oh, cazzo, chiamo mio figlio. Cioè, quella è la gestione. Cioè, quello, per farvi capire, Rebecca Ferguson è il primo punto di vista. Lei sì, lei non è neanche il capo della sua sezione, però lei... deve... che sarebbe stato totalmente realistico, donna giovane. No, vabbè, però insomma il punto di vista che dai è quello lì. E uno si aspetta che lei dia un contributo alla cosa, in realtà lei non fa materialmente nulla, cioè riporta solo le informazioni. Per farvi capire, quello dopo è quello che effettivamente contratta col ministro degli esteri russo per dire: siete stati voi? Sì, vi bombardiamo? No, non vi bombardiamo. Cioè, il primo punto di vista è inutile, il secondo ha un fine, l'ultimo, se ho capito bene, è il presidente degli Stati Uniti, quindi sì. Insomma, decide lui se premere il tastino di nuclearizzare tutto o no. Vabbè, per niente, era un piccolo... però sì, Rebecca Ferguson, poverina, fa la mamma in questo film. Comunque no, non sono... cioè, adesso, beh, poi gli altri film della regista io non li ho visti. Però in realtà per me una delle scene che è rimasta più impressa è quando il generale, mm-hmm, o quello che era, tu non l'hai visto, quindi non dire... mm-hmm, fa vedere le possibili opzioni al presidente degli Stati Uniti e lui le definisce come se fossero carne, pezzi di carne. Quindi secondo me, cioè non lo so, secondo me non è siamo gli Stati Uniti, siamo buoni e cattivi, ma i militari sono cattivi. Per me è rimasto molto più quello, perché alla fine tutta la... l'apparato militare continua a dire: bisogna sparare, bisogna sparare, bisogna sparare. Ma scusa, facciamo milioni di vittime, ottimo, ne possiamo fare di più. Ma quello con quello sul bombardiere, poi che fine? No, fa? Niente, è una comparsata. Infatti, quello era tre minutaggio anche, che avrei potuto. Anche me, lui, per tagliare. Esempio, è un punto di vista che potevano approfondire. Tipo, quello sul bombardiere è quello che effettivamente deve fare la contromisura. Quindi poteva mettere un po' più di carica. Ma cioè, o lo approfondivo. La cosa divertente di questa roba qua di cui stiamo parlando è che non è originale per un cazzo. Cioè, questo secondo me è il problema vero del film. Io capisco dove vuole andare a parare, però sta roba qua l'abbiamo vista mille volte con il caso quello lì della Guerra Fredda, no? Che hanno fatto un film sopra su quelli... Il Ponte delle Spie. No, quelli che dovevano mandare... quelli che c'è stato un falso lancio e invece... cioè, vabbè, l'episodio storico, non mi ricordo. Ah, sì, che citano... Vabbè. Quello è stato un'altra roba. E cioè, questa roba qua l'hanno fatta mille volte e in questo film non è particolarmente brillante, anzi. E l'altra cosa che mi fa incazzare è che la regista ha preso dei tipi umani, cioè dei personaggi, delle maschere, degli archetipi, grazie teatrante, degli archetipi brutti. C'è la tizia incinta, c'è la tizia col figlio, c'è il tizio... La tizia incinta. È il padre con la moglie incinta, la tizia che ha la figlia di là, lui sì. Che... Cioè, mi sembra molto andare a cercare proprio quello che ti deve dare un'emozione. E a me sta un po' sul cazzo. O mi dai un personaggio così, e va benissimo, che mi dà un'emozione, la provo l'ansia, provo la figlia che è a Chicago e lui si caga sotto, quello che è di là. Cioè, o mi dai un personaggio, ma non puoi darmeli tutti. Boh, vabbè. No, secondo me andava asciugato, cioè... Ci sono pezzi inutili. Alcuni mi sono piaciuti perché li umanizza, nel senso che alcuni personaggi sono più umanizzati, cioè li rende più umani, più credibili. Poi potevano non essere tutti, tipo il tizio che contratta, potevi non mettergli la moglie incinta. Esatto, quello dico. Però il tizio, il senatore di 60 circa anni, che avesse effettivamente una figlia, era credibile, era possibile. No, era realistico, benissimo. E quello gli dava una sfera molto più umana al suo personaggio, anziché essere semplicemente il senatore che dice sì, no. E invece quell'altra che non si sa bene qual è il suo ruolo, che si lamenta e poi sale sull'auto, fa qualcos'altro quella... oppure... Che ti rode il suo personaggio? No, cioè, non lo sai, alla fine forse sale sull'autobus e va nel rifugio antiatomico, però quella è tutta una parte che potevi tranquillamente togliere, cioè se tanto decidi di far vedere praticamente nulla del piano di evacuazione, del possibile piano di evacuazione, è come il bombardiere, non mettercelo. No, lei vuole darti un'emozione, cioè, quindi quello usa il personaggio. Non ti dà niente, cioè quello non ti dà proprio nulla, toglilo, hai tolto 10 minuti di minutaggio e... Togliendo, secondo me sto film diventava un cortometraggio, un mediometraggio, cioè potevano farlo. Il Dottor Stranamore diventava. Esatto. Infatti è quello, è Dottor Stranamore. Cioè, allora, potrei parlare ancora a lungo del perché, diciamo, la penso così riguardo a sto film, ma cerco di dare una cosa più ad alto livello di Kathryn Bigelow. Cosa racconti, cioè quale storia racconti, da quale punto di vista e con che piglio, diciamo, la racconti, è importante, no? Cioè, esempio con Clint Eastwood ha fatto un film su American Sniper, su un criminale di guerra, e l'ha fatto come fosse un eroe. Mm-hmm. Se tu decidi di fare un film su una cosa... Diciamo, la cosa che salva questo film è forse che il missile fino alla fine non sai chi è che l'ha lanciato. Questo posso dire che, un po' come Top Gun, è una mossa un po' paracula, nel senso che in Top Gun, non so se lo sapete, se vi ricordate, ma non ci sono i russi, sono i nemici. Cioè, sì. Non vengono mai chiamati russi, no? Però detto chiaramente che poi sono tutti i riferimenti, esatto. Però, boh, secondo me è paraculo, sto film non mi è piaciuto perché è proprio anxiety porn, non so, proprio è ansia... Ansia gratuita. Esatto, è il pizzaiolo che arriva con la pizza e poi dice, ma vuoi anche un po' d'ansia? Questa cosa molto da porno, non lo so. Però vabbè. E vogliamo dire quanti cazzo di acronimi ci sono? Come? Vogliamo dire quanti acronimi ci sono in questo film? Non si capisce un cazzo. Sì, all'inizio non capivo di cosa parlassero. Io sì, perché purtroppo sono un po', come si dice, sono un larper. Sei filo americano. Sì, sono filo americano, mi piace. No, tipo l'alfabeto, quello fonetico NATO, oppure le sigle, quelle dei militari. Ho giocato a Call of Duty, quindi sono un esperto. Hai votato Trump. Beh, questo te l'hanno chiesto i tuoi studenti l'anno scorso. Mi ha detto di sì. Cosa? Mi hanno chiesto se ho votato Trump. Cosa? Sono piccoli. Ma... ok. In che senso? Non sanno bene come funziona la geografia. Ok. Oh mio Dio. Vabbè. Volevate dire altro su questo film? No. No, allora chiudiamo perché poi tu hai fretta e devi scappare. Oh no. Vabbè. Oh no. Dai, così registriamo anche l'altra puntata che ci tenevi. Perché vuoi prendermi in giro e maltrattare? No, così no, ci saranno le prove che sono maltrattata in questa famiglia. Va bene, grazie di averci seguito. Allora, se volete recuperare questo film, se vi piace l'ansia, io lo consiglio. Ah, e Idris Elba ha un minutaggio di 18 minuti, di 18-19 minuti, stando a Google. Che è letteralmente, wow. Se voi prendete i minuti del film e dividete per 3, è letteralmente il minutaggio di Idris Elba. Ci tengo a precisarlo, perché lui mi ha detto, no, ma farò una comparsata da 2 minuti, e invece no. Però non l'ho visto lo stesso, perché non l'hai visto la sua fino voce. Alla fine, questo è vero. Va bene. Dai, grazie e ci vediamo a settimana prossima con un altro film brutto. Sì. Oh no. Ciao.